per me il solo amore. No, non ti scorderò, vivrò per te, ti sognerò. Ormai per me, come il sole sei tu, lontan da te, e morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato il cuore. Lontan da te e morir d'amor, perché sei tu che m'hai rubato.